Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La Savio di Pordenone applica subito il protocollo tra le parti sociali sull'abbassamento della temperatura in fabbrica, così da ridurre i consumi di gas. Già 4.500 la richiesta di contributo per il pagamento di luce e gas presentata alla Regione. Si stima che i potenziali beneficiari siano 39.000. Non suscita allarme il numero di richieste di cassa integrazione da parte di aziende della Regione. Non si è registrata una crescita rispetto a valori considerati fisiologici. L'area dell'ex mercato di via Melchiorre Gioia a Trieste sarà attrezzata in modo da dare spazio a 90 posti letto per i migranti che dormono all'addiaccio in Piazza Libertà. A Udine cambiano le regole della ZTL e sarà creata una zona pedonale con ulteriori limitazioni. Si inizia con una ricognizione sugli 8.000 permessi già concessi. Trieste ospita il congresso nazionale dell'associazione Pubblici Giardini, un approfondimento sulla gestione del verde pubblico nelle città. Le novità su scompenso cardiaco e cardiomiopatia al centro del congresso cardiologico che si tiene al Molo IV di Trieste. Sport, argento per i ciclisti regionali Milan e Moro nell'inseguimento a squadre. Pallanuoto, esordio vincente di Trieste nella Eurocup. 7:19 minuti e 20 secondi, buona giornata da Daniele Lettige e da Paolo Roncoletta. Anzitutto uno sguardo al tempo, il cielo è prevalentemente sereno, poco nuvoloso sulla regione, maggiore formazioni di nubi sulla Carnia e sulla parte nord-occidentale della regione. Le temperature registrate alle 7, a Trieste abbiamo 15 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 21 gradi. A Udine 9 gradi, a Gorizia 12,5, a Pordenone 10 gradi. 10 gradi anche a Tolmezzo, a Forni di Sopra e Tarvisio quasi 8 gradi, a Sappada 4 gradi, 3 gradi sul Monte Lussari, 16 a Lignano, poco meno di 16 a grado. Ed ecco le previsioni. Oggi su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile con venti di brezza. Sulla zona montana cielo in prevalenza variabile. Su tutta la regione maggiore nuvolosità dal pomeriggio. E di qualche giorno fa il protocollo Confindustria Sindacati per regolamentare eventuali misure di risparmio nei siti produttivi. La Savio, azienda del meccano tessile, ha già provveduto a riduzione di 2 gradi della temperatura in fabbrica. Le aree officina da 18 gradi passeremo a 16, lato uffici da 20 gradi passiamo a 18. È la Savio di Pordenone una delle prime aziende a voler applicare il protocollo firmato da Confindustria e Sindacati per ridurre il costo delle bollette. Per riscaldare la fabbrica l'anno scorso sono serviti oltre 500.000 metri cubi di gas nella stagione invernale. Con i prezzi attuali della materia prima è necessario ridurre i consumi. È per questo che si abbasserà di 2 gradi la temperatura interna. Mirko Zin, direttore del personale di Savio. Dovremmo intervenire perché se dovessimo tenere lo stesso comportamento avuto lo scorso inverno ci ritroveremo con un costo aggiuntivo che abbiamo immaginato intorno a 1 milione in più. Sulla base del protocollo ogni impresa troverà le migliori soluzioni per risparmiare anche modulando gli orari. Se ne occuperà il comitato paritetico aziendale già istituito per l'emergenza Covid. In cambio il datore di lavoro può fornire bevande o indumenti per sopportare meglio le temperature più basse. In Savio c'è già un'ipotesi. Negli uffici piuttosto che in produzione, con dell'abbigliamento che possa in qualche maniera ridurre i possibili disagi da un riscaldamento leggermente più basso. L'azienda che produce macchinari per il settore tessile esportati in tutto il mondo a quasi 2 anni dall'avvio dell'iter sta per terminare l'installazione di un grande impianto fotovoltaico che le permetterà di alleggerire la bolletta. Andrea Dell'Anna, Facility Manager. Il consumo annuo di 3.500 megawattora che abbiamo verrà per circa il 70% coperto dal nostro impianto fotovoltaico. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 15 di ieri pomeriggio erano ben più di 4.500 le domande per contributo a sostegno delle spese di gas e luce. Con i 40 milioni stanziati nell'ultimo assestamento, i potenziali beneficiari sono circa 39.000. Per il 92,5% microimprese. L'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha affermato che si attende anche un intervento in sede nazionale e soprattutto europea per far fronte al caro energia e al rischio recessione. Le aziende sono alle prese con il caro energia che ha stoppato la ripresa seguita alla pandemia, ma dalle domande di cassa integrazione non emerge uno scenario particolarmente allarmante. A guardare la cartina al tornasole delle richieste di attivazione di cassa integrazione, sembra mostrare una certa resilienza il tessuto produttivo della regione. Una cinquantina le domande su 700 associati in Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Una quindicina le domande tra le oltre 800 grandi imprese associate a Confindustria Udine. Confindustria Alto Adriatico indica che l'incremento è al momento fisiologico e non desta allarmismi. Difficoltà segnalate nel settore grafica e stampa. La federazione di categoria della CGIL riferisce che solamente nella provincia di Udine e solamente nell'ultima settimana hanno chiesto cassa integrazione 3 aziende per mancanza di ordini e materia prima. Secondo diversi esperti contattati, se qualcuno sceglie un atteggiamento attendista di fronte all'incertezza, la maggior parte delle ditte si sta muovendo per rivoluzionare i propri assetti produttivi. Claudio Siciliotti, ex presidente nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. La prima reazione è quella di accorciare le filiere produttive. La seconda è quella di prepararsi ad eventi che sono di per sé imprevedibili e quindi creare strutture assolutamente più flessibili di modo che si possano accorciare e espandere a seconda dei momenti e delle necessità e non rimanere fisse e rigide anche nei momenti di sofferenza. Dal mese di settembre, INPS e Agenzia delle Entrate stanno inviando comunicazione alle aziende con più di 5.000 euro di debiti nei confronti dell'erario di trovarsi in situazione di squilibrio. In estate è entrata in vigore la riforma del codice della crisi d'impresa. Il cardine è uno strumento di risanamento aziendale chiamato composizione negoziata, attivabile nelle camere di commercio e ancora poco conosciuto, tanto che sono appena 9 le richieste in Friuli Venezia Giulia. Ignorare la comunicazione, però, impedisce l'accesso ad un tavolo con i creditori, incluso lo Stato, per rinegoziare o stralciare i possibili debiti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Comune e Prefettura di Trieste hanno scelto di mettere a disposizione dei migranti senza tetto l'area dell'ex mercato di Via Gioia, con una novantina di posti letto. Una soluzione provvisoria per coloro che dormono all'aperto in Piazza Libertà. Una struttura cuscinetto per tamponare l'emergenza, un riparo per i migranti che in numero sempre maggiore passano la notte dormendo a ghiaccio in Piazza Libertà, di fronte alla stazione di Trieste. Il piano del comune e della prefettura della città è di impiegare il mercato comunale dismesso di via Flavio Gioia nell'area del vecchio Silos per ospitare gli stranieri. Sarà pronto tra un mese e fornirà 90 posti letto con l'obiettivo di offrire un riparo ai migranti per superare i mesi invernali. Carlo Grilli, assessore ai servizi e alle politiche sociali. I nostri tecnici stanno operando affinché prima dell'arrivo del freddo questa struttura sia pronta e costituiremo poi un bando dove tutte le associazioni che si occupano di questo tema potranno accedervi proprio per garantire copertura di questo servizio. Il comune stanzierà 30.000 euro per i lavori, il Ministero dell'Interno contribuirà con altri 300.000 per fornire letti, coperte e lenzuola. Una decisione necessaria. Gli ingressi lungo la rotta balcanica sono in crescita. Quest'anno se ne sono registrati quasi 12.000 in tutta la regione e poco meno di 7.000 a Trieste. E nel mese di ottobre i numeri sono in ascesa. Pakistan. Afghanistan. Afghanistan. Vengono da Afghanistan, Pakistan, non hanno soldi né cibo e nemmeno un tetto per dormire. Passano la notte al freddo nei giardinetti di fronte alla stazione. Alcuni portano i segni delle torture subite durante il loro viaggio per arrivare in Italia. I have a notebook, you know, and writing. Sto imparando a scrivere in italiano. Ho con me un quaderno. Ma per me non c'è spazio e devo dormire qui. I am sleeping with air. Negli ultimi giorni si è mossa anche la cittadinanza con una lettera firmata da diverse centinaia di triestini. Chiedono alle istituzioni di trovare una soluzione. Dormono al freddo tra cartoni e fogli di plastica, scrivono. Adesso comune e prefettura sono corsi ai ripari. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 3 interventi in poco più di un'ora nel tardo pomeriggio di ieri a Meduno. Nel primo caso si è trattato di un parapendista di 73 anni precipitato nei pressi del Monte Valinis subito dopo il decollo e soccorso dal personale dell'eliambulanza. Ha riportato diversi traumi e ricoverato all'ospedale di Udine con riserva di prognosi. Poco dopo, nei pressi della vetta, un 71enne ha accusato un malore. È stato preso in carico dal personale del soccorso alpino che era già sul posto per il precedente intervento. Altra uscita, intorno alle 19, una donna caduta lungo una mulattiera nei pressi di Borgo del Bianco, a metà versante del Monte Cereis. Sono state invece sospese le ricerche dell'81enne di Verzegnis, disperso da una settimana sulle Prealpi Carniche, ricerche che, nonostante l'impiego di mezzi uomini, non hanno dato esito. 1.435 i nuovi casi da coronavirus registrati ieri in Friuli Venezia Giulia, un dato in lieve crescita rispetto a giovedì scorso. Rimane praticamente invariata l'incidenza settimanale, poco sopra i 750 casi per 100.000 abitanti. Calano i pazienti positivi negli ospedali, 223 nei reparti di area medica, 9 in meno di mercoledì, 11 nelle terapie intensive Covid, 1 in meno del giorno precedente. Si registrano anche 5 decessi per Covid, di cui 4 avvenuti nei mesi precedenti. Al termine di un percorso condiviso con i portatori di interesse, il Comune di Udine ha definito le nuove linee guida della zona traffico limitato. Prioritariamente ci sarà la distinzione fra ZTL e zona pedonale, quest'ultima con regole molto più restrittive per l'accesso degli automezzi. Includerà Piazza Duomo, via Mercato Vecchio, via Cavour, via Canciani, piazza San Giacomo. Per la zona traffico limitato ci sono 3 passaggi previsti: la verifica puntuale su tutti gli 8.000 permessi finora rilasciati, poi verranno sistemate delle barriere mobili in alcune zone d'accesso dove attualmente ci sono delle fioriere. Infine saranno sostituite le telecamere poiché quelle attualmente installate non vanno più bene. Le nuove telecamere dovrebbero risolvere il problema della pioggia di multe che erano state comminate qualche anno fa. Le nuove regole saranno oggetto di una delibera di giunta. La fase operativa inizierà presumibilmente da novembre. La qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia è buona. Criticità emergono invece per l'ozono e per il benzopirene, in particolare nelle zone in cui viene utilizzato massivamente legname per il riscaldamento domestico e nell'area del Friuli occidentale maggiormente a ridosso della pianura padana, a causa della presenza di polveri sottili PM10. I dati sono stati calcolati grazie al monitoraggio compiuto attraverso le 19 centraline collocate sul territorio regionale. È quanto emerge dalla relazione sulla qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia, presentata durante i lavori della quarta commissione in occasione dell'adozione preliminare dei documenti che compongono il piano regionale della qualità dell'aria, approvato ieri a maggioranza. 7:29 minuti 30 secondi. Sarà effettuata questa mattina a partire dalle 8:30 all'Istituto Superiore Torricelli di Maniago un'esercitazione antisismica. Prevede l'evacuazione della scuola con 700 persone coinvolte fra docenti e studenti. Lo scopo dell'esercitazione è quello di informare le famiglie degli studenti e la popolazione in generale sui corretti comportamenti da adottare in caso di terremoto, in base al piano di emergenza comunale. Opereranno l'unità droni della Protezione Civile Regionale, Prefettura di Pordenone, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri, Direzione Risorse Agricole e Forestali, una squadra specialistica del soccorso in acqua della stazione dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa, la sala operativa mobile o posto di comando avanzato. Altro progetto formativo è quello frutto della collaborazione fra Isis Malignani e Acciaierie ABS. Il percorso prevede, a partire dalla terza classe, stage aziendali, visite in aziende e laboratori con tecnici e ingegneri di ABS. Il piano prevede 3.000 ore di alta specializzazione con 350 ore di discenza per ciascuno studente. Ripartenza, ecosostenibilità, innovazione, storie di donne imprenditrici, il titolo dell'evento organizzato dall'Unione CNA Giovani Imprenditrici del Friuli Venezia Giulia in programma a Monfalcone a Marina Lepanto questa sera alle 18. Protagoniste e personaggi di spicco dell'imprenditoria regionale intervistate dalla giornalista Roberta Giani, direttrice del Piccolo. Testimonial dell'evento la ciclista Katia Aere, vincitrice del bronzo olimpico alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Si tiene oggi alla stazione marittima di Trieste, con inizio alle 9, il congresso nazionale dell'Associazione Pubblici Giardini, che si occuperà del tema Il verde pubblico e le sfide del cambiamento climatico. Ce ne illustra i dettagli il presidente dell'associazione, Roberto Diolaiti. Avremo circa 200 partecipanti che sono soci che provengono un po' da tutta Italia e il tema del convegno di domani sarà il cambiamento climatico e quindi le scelte progettuali che devono essere attuate proprio per cercare di contrastare nell'ambito degli interventi di forestazione i cambiamenti climatici. È previsto anche un intervento per la gestione del conflitto nell'ambito del rinnovo delle alberature, che è un tema molto di attualità. Quali sono le soluzioni pratiche per contribuire attraverso il verde pubblico a mitigare il cambiamento climatico nelle città? Innanzitutto quella di incrementare il numero degli alberi nelle città, però compatibilmente agli spazi a disposizione, cioè il motto è piantiamo alberi non numeri, nel senso che sparare delle cifre spesso non ha senso perché lo spazio materiale per mettere a dimora quegli alberi non sempre esiste, però ovviamente tutti i piani di adattamento ai cambiamenti climatici o i piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima, di cui molte città si stanno adottando, mettono l'albero al centro di molte delle azioni volte a mitigare il clima urbano, a contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e in senso generale proprio a contrastare il cambiamento climatico per quanto possibile. Quindi sicuramente la messa a dimora degli alberi, sicuramente una gestione sostenibile del verde pubblico che presupponga l'impiego di specie più adatte, di specie più efficaci nell'assorbimento e nello stoccaggio dell'anidride carbonica e nell'assorbimento delle polveri sottili, ma che siano anche il meno idroesigenti possibile, ovvero vero che non necessitano di particolari interventi irrigui, perché abbiamo visto che le ultime estati sono state particolarmente siccitose. Laboratori all'aperto, biodiversità, aree verdi e paesaggi urbani offrono numerosi spunti di riflessione ai progetti sviluppati dai ragazzi di 5 istituti superiori della nostra regione, con la collaborazione dell'Università di Udine, nell'ambito del progetto europeo Pulcra. I risultati delle attività svolte saranno presentati alle 9 nelle aure Feruglio del Polo Universitario dei Rizzi. Abbiamo sentito la coordinatrice del progetto, professoressa Maurizia Sigura. Il progetto Pulcra è un progetto europeo finanziato dall'asse Horizon 2020 che ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza scientifica soprattutto attraverso quelli che sono i temi legati alla sostenibilità e alla sostenibilità in ambiente urbano, quindi la sostenibilità degli ambienti in cui l'uomo è più presente. L'Università di Udine è coordinatrice di uno dei segmenti di questo progetto assieme a Globe Italia, una rete italiana di scuole che promuove anch'essa la ricerca scientifica e soprattutto l'educazione alle scienze. Con il loro supporto abbiamo creato una rete di 6 scuole il primo anno, 5 scuole il secondo, che si sono impegnate su questi temi attraverso un approccio multidisciplinare. E quali sono i risultati più interessanti raggiunti dai progetti delle scuole? Direi che i risultati più interessanti sono i 10 progetti che le scuole hanno sviluppato, che hanno riguardato diversi aspetti, dalla biodiversità attraverso la salvaguardia degli impollinatori, alla funzione che le aree verdi urbane hanno in termini di connettività ecologica, ma anche in termini di salute e di benessere per l'uomo, a quelle che sono le potenzialità delle aree verdi nel rappresentare dei veri e propri laboratori a cielo aperto in cui non solo gli studenti ma anche i cittadini possono sviluppare esperienze legate alla scienza e legate all'ambiente che ci circonda. L'elemento però forse più interessante è stato proprio che i ragazzi hanno svolto attività in qualità di science reporters, quindi portatori, divulgatori del sapere scientifico che hanno sviluppato all'interno del loro progetto verso la comunità che li ospita. Un convegno per conoscere il tratto meno esplorato dell'Isonzo, quello che dal confine giunge a Gorizia, noto come teatro di guerra e non per la sua ricchissima biodiversità che necessita di continua salvaguardia. Lo organizzano questa sera alle 18.30 al Kinemax di Gorizia la Società Alpina Friulana, il CAI del capoluogo isontino. Isonzo, fiume sacro tra natura e criticità di gestione, questo è il titolo dell'appuntamento, ricade nell'ambito del percorso Le forme dell'acqua e prevede l'intervento, tra gli altri, del naturalista Pierpaolo Merluzzi, che descriverà le molte valenze ecologiche del fiume nel tratto goriziano, fin dove questo giunge a lambire il Carso. Sabato mattina è prevista un'escursione lungo le sponde del fiume per osservare da vicino le valenze e criticità, argomento del convegno. Inizia oggi a Gorizia alle 16 all'Hotel Entourage il 22° congresso dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che si concluderà domenica. Il capoluogo isontino è stato scelto in quanto luogo di accoglienza per migliaia di esuli dopo la Seconda Guerra Mondiale e guardando al 2025, anno in cui Gorizia e Nova Gorizia assieme saranno capitale europea della cultura. Si tratterà di un'occasione per affermare quanto il processo europeo per gli esuli rappresenti il superamento di antichi attriti. I lavori congressuali si apriranno con la relazione del presidente nazionale Renzo Codarin, mentre sabato pomeriggio è prevista l'elezione del nuovo Consiglio nazionale che si riunirà immediatamente per nominare il presidente nazionale. Novità su scompenso cardiaco e cardiomiopatie è il titolo del convegno medico dedicato alle patologie cardiache che inizierà alle 8.50 al Centro Congressi Molo IV di Trieste. Ecco i temi che saranno affrontati nelle parole di Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento ad Attività Integrata Cardio-Toraco-Vascolare dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. Il congresso affronterà i temi delle innovazioni che si sono realizzate e che in prospettiva costituiranno orizzonte di ricerca nel settore dello scompenso cardiaco e delle cardiomiopatie, ove dalle informazioni del registro sulle cardiomiopatie che esiste a Trieste da oltre 30 anni ed ha arruolato oltre 2.000 pazienti provenienti da tutta Italia, che negli ultimi anni sono stati anche sottoposti a genotipizzazione, cioè caratterizzazione genetica in collaborazione con l'IRCS Burlo Garofalo, e svilupperà in ambito diagnostico, terapeutico, prognostico tutti i temi relativi ai grandi gruppi di cardiomiopatie, che sono malattie che colpiscono soggetti giovani, spesso con implicazioni familiari che talvolta possono richiedere l'impianto di dispositivi per la prevenzione della morte aritmica improvvisa o, in alcuni casi particolari, estremi, selezionati, il trapianto cardiaco. Quanto sono diffuse le cardiomiopatie in Italia e quanto c'è attenzione da parte sia della cittadinanza sia di voi medici su queste patologie? La cosiddetta prevalenza di malattia, cioè il numero di soggetti per 100.000 abitanti, oscilla per i vari tipi di cardiomiopatie fra i 10-15 e i 36-40 casi per 100.000 abitanti nelle varie comunità. Le implicazioni, cioè l'attenzione a questo tipo di patologie, scaturisce, come abbiamo accennato, dal fatto che, a differenza delle classiche cardiopatie con insufficienza cardiaca, si tratta di soggetti mediamente giovani, l'esordio è mediamente a meno di 40 anni, e di almeno nel 25-60% dei casi aggregazioni familiari, quindi il focus di attenzione, oltre che dall'impegno di caratterizzazione del singolo malato, si sposta all'intero contesto della famiglia che deve essere screenato. È dedicata allo psichiatra Franco Basaglia all'edizione di quest'anno del festival Mind the Gap, che si inaugura questa sera alle 18 allo spazio 35 di via Caterina Percoto a Udine. Il progetto d'arte contemporanea, ideato da Augusto Eniti, giunto alla sesta edizione, vede quest'anno la partecipazione di 5 artisti visivi: Sofia Cesar, Danilo Correale, Carolina Bergman Engman, Giulia Iacoluti e Flavia Tritto, selezionati per il loro modo di ibridare i generi artistici e per l'elaborazione culturale intorno alle questioni che attraversano il nostro tempo. Da diverse prospettive gli artisti mettono in discussione l'idea che ci sia uno spazio meramente fisico su cui poggiano le cose e gli eventi, invitandoci a pensare che spazio e tempo accadono con gli eventi. Una serata informativa aperta alla cittadinanza in modalità ibrida, in presenza e online, per affrontare il tema della malattia oncologica in relazione ai fattori emotivi e sociali di chi si ammala e dei suoi familiari e dei caregivers. È quella che si svolgerà stasera alle 18.30 alla Casa della Psicologia di Udine, con il titolo Elementi di psiconcologia. Relatrice della serata sarà la dottoressa Eva Pascoli, psicologa e psicoterapeuta, dirigente del Dipartimento di Oncologia dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale di Udine e didatta dell'Istituto di Formazione in Psicoterapia Sistemica Familiare e Relazionale NAVEN di Udine. Non solo irrigazione, attività di difesa idraulica del territorio, anche energia elettrica da fonti rinnovabili, bonifica ambientale di siti inquinati, attività di dragaggio in aree lagunari e portuali, manutenzione della viabilità lagunare sono i temi che saranno affrontati nel convegno del centenario dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni Miglioramenti Fondiari alle 16.30 al Salone del Parlamento del Castello di Udine, in sintonia con le indicazioni nazionali. L'incontro si concentrerà sul tema leggere il passato per immaginare il futuro. Vedrà la partecipazione di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo economico, di quello sindacale e dell'agricoltura. Stasera quarto appuntamento del progetto Viers Pordenone El Mont, Pierpaolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana, realizzato da Fondazione Pordenone Legge e dalla rete degli istituti italiani di cultura, che porta in tutta la regione 11 video dedicati ad altrettanti luoghi della poesia e del mito di Pasolini, dove si alternano le prime poesie di Pasolini in friulano e le voci di giovani poeti italiani che raccontano dove la loro vita più a fondo è legata alla poesia e perché. Appuntamento alle 19 a Cordovado nell'auditorium Tondat a Palazzo Marcuzzi per la serata dal titolo Nel Borgo l'Alba abbaglia. Protagonisti i poeti Marco Scarpa e Giacomo Vitt, introdotti da Gianmario Villalta. Si intitola L'acciaio dentro, vite, fatiche e sudore accanto al cammino della Safau, il documentario realizzato da Andrea Marmaglia e Ivano Sebastianutti, che ripercorre attraverso testimonianze e fotografie la storia dell'acciaieria Safau, che sorgeva alla periferia sud di Udine. Udine è un'idea nata a marzo con le giornate di primavera del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che aveva scelto l'area dismessa della Safau come esempio di archeologia industriale. Sentiamo uno degli autori del documentario, il nostro collega Andrea Marmaglia. In questa giornata del FAI, presenti a illustrare quelle che erano le attività produttive dell'ex Safau, c'erano i ciceroni, che erano degli ex dipendenti della Safau. Lo stimolo che mi è stato dato per realizzare questa cosa mi è stato dato da Ivano Sebastianutti, che è colui anche che ha realizzato le animazioni grafiche del documentario. Lui era uno dei ciceroni e insieme siamo partiti, a dir la verità, dicendo registriamo delle voci. Ci siamo accorti, risentendoli, che c'era una storia dietro, una storia industriale della Safau nella sua opera e nel corso degli anni, ma anche abbiamo scoperto uno spaccato di vita degli operai, dei metalmezzadri, di chi arrivava in bicicletta di come si svolgeva la vita dentro nella Sapao. E grazie anche alla testimonianza appunto di questi ciceroni, tra cui Roberto Muradore, che lavorava in Sapau e che ha dato anche diversi spunti per capire i rapporti che c'erano tra i dipendenti. E poi c'è una piccola parte finale dedicata alla fine della Sapau, alla chiusura della Sapau e alla crisi, e quindi il filmato termina con un auspicio di Chiara Bettuzzi, responsabile FAI per Udine, che auspica una riqualificazione dell'area a scopo museale. Progetto Video Memorie del Friuli, la società filologica friulana ha voluto recuperare e studiare uno dei fondi filmici di argomento etnografico più antichi d'Europa, quello delle studiose Oliva Averso Pellis e Andreina Nicoloso Ciceri, che tra il 1972 e il 75 si dedicarono alla realizzazione di 8 videodocumentari inerenti a alcune delle tradizioni popolari più importanti del Friuli. Il progetto si è articolato in due fasi, quella della digitalizzazione, restauro e catalogazione del fondo etnografico e quella della valorizzazione e divulgazione. In quest'ambito si svolgerà la restituzione del fondo attraverso un convegno e un percorso multimediale organizzati al Museo Etnografico di Udine. Alle 11 è prevista la presentazione alla stampa del progetto, mentre il convegno prenderà il via alle 14.30. Si arricchisce con una nuova sezione dedicata alle prime donne elette in Consiglio Comunale a Codroipo e all'analisi del contesto sociale e culturale in cui esordirono nella vita pubblica la mostra Che genere di voto? Immagini e parole dalla stampa friulana sul primo voto alle donne 1946-1948. Dopo il successo di Pubblico a Udine e Aquileia, la mostra arriva proprio a Codroipo, l'inaugurazione stasera alle 18.30 nell'ex casa Daniele Moro in via Candotti 2. Fotografie, dati e documenti dell'epoca forniti dalle famiglie delle elette scovati negli archivi comunali offriranno al pubblico uno spaccato inedito della storia del Codroipese nell'immediato secondo dopoguerra. Considerato da un'ottica di genere, la mostra è il frutto di un progetto di ricerca condotto dal coordinamento regionale delle donne AMPI con la sezione udinese dell'associazione Se non ora, quando? Saranno in mostra Udine, con replica a Trieste a novembre, le opere realizzate dai 10 artisti internazionali che sono stati in residenza in Friuli Venezia Giulia nel corso dell'estate, ospiti della prima edizione del Festival di Arte Contemporanea Beside the River. Inaugurazione in programma questa sera alle 17 al Bunker di Piazza Primo Maggio. La mostra, che spazia dalla videoarte alle elaborazioni fotografiche alla pittura gestuale, tutte incentrate sul ruolo storico del fiume Isonzo, sarà aperta al pubblico da domani al 6 novembre. Nell'ambito dell'ottava edizione di Archivi Aperti a Palazzo Taddea di Spilimbergo, il CRAF presenta alle 18 l'incontro Dall'analogico al digitale, un viaggio virtuale attraverso la memoria storica del territorio. Durante la serata sarà svelato il fondo digitalizzato Cadel Segale, composto da 5.200 lastre e realizzato in Friuli Venezia Giulia tra il 1918 e il 1976 dalla dinastia di vedutisti Adriano Cadel, Dante Segale e Aldo Segale. L'archivio, acquisito nel 2021, rappresenta una vera e propria mappatura della nostra regione, coinvolgendo decine di comuni, frazioni e borghi fotografati rigorosamente in bianco e nero, per soddisfare enti pubblici e commercianti interessati alla stampa di cartoline per promuovere il nostro territorio. Ciliegina sulla torta del Festival Udine Castello 2022. Oggi alle 17 in Sala Iace, il pianista Amir Farid terrà a battesimo il rinnovato Gran Coda degli Amici della Musica. Si tratta del pianoforte Steinway che i cittadini udinesi comprarono nel 1961 tramite una colletta durata ben 4 anni e supportata da diversi enti. Suonato dai grandi pianisti del Novecento sul palco del Palamostra durante la gloriosa vita degli Amici, lo strumento tornerà a svelare le splendide sonorità al termine di un processo di restyling. A inaugurarlo sarà un grande interprete. Amir Farid, di origine iraniana-australiana, ha vinto l'Australian National Piano Award e si è esibito nelle più rinomate sale da concerto del mondo. L'appuntamento pomeridiano renderà anche omaggio a Pierluigi Cappello a 5 anni dalla scomparsa, con una selezione di letture in lingua italiana e in lingua friulana proposte dalla voce di Gianni Nistri. Un performer, dei piatti da DJ e un microfono. Tiresias, spettacolo diretto da Giorgina P, pluripremiato i premi UBU, porta in scena il testo di Kae Tempest, artista londinese esponente della slam poetry, poesia performativa, che mescola rap, poesia, politica e musica. Leone d'argento alla Biennale di Teatro 2021. Tra vecchi dischi e nuove impressioni, l'attore Gabriele Portoghese, premio UBU 2021, segue orme poetiche e sonore per le strade di un mondo che morendo rinasce. Lo spettacolo, interpretato dall'attore portoghese, andrà in scena alle 21 al Teatro San Giorgio di Udine per la stagione del Teatro Contatto 40 del CSS. ha per titolo Connessioni generazionali, la 18ª edizione del festival La scena delle donne, che indaga la forza delle donne attraverso il teatro. La rassegna inizierà stasera alle 20.45 a Palmanova al Teatro Gustavo Modena, dove andrà in scena l'ultima risata della compagnia Abaco Teatro. Il festival proseguirà sabato 15 a Monfalcone con il recital musicale Donne di Confine alle 20.30 al Teatro Comunale. Lo spettacolo sarà poi replicato a Gorizia, al ridotto del Teatro Verdi Francesco Macedonio, venerdì 28 alle 20.45. Si concluderà stasera la prima edizione di Mozart e dintorni, rassegna organizzata dall'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'associazione Mozart Italia. Un percorso in tre tappe in altrettanti teatri della regione dedicato alla musica classica. Protagonista della serata di chiusura sarà il quartetto Vespa, formazione ungherese, che proporrà un programma dedicato ad alcuni capisaldi della letteratura per quartetto d'archi. Ad aprire il concerto sarà il quartetto in re minore KV-173 di Wolfgang Amadeus Mozart, seguito dall'opera 76 L'Aurora di Franz Joseph Haydn e dall'opera 125.1 di Franz Schubert, brani che permettono di compiere un viaggio virtuale nell'atmosfera viennese a lungo la rappresentativa dell'apice della cultura europea. Appuntamento alle 20.45 nell'auditorium comunale di Povoletto. E stasera andrà in scena a Pordenone, dopo 3 anni di implementazione internazionale, il progetto europeo dal titolo Bravo Bravissimo, coordinato dall'Associazione Musicale Orchestra e Coro San Marco. Uno spettacolo per voci, attori e orchestra con un cast internazionale di artisti tra i 23 e i 30 anni che hanno lavorato sulla figura di Gioacchino Rossini dal punto di vista teatrale, musicale e delle varie suggestioni che la sua personalità ha potuto suggerire, non ultime quelle legate alla cucina. Alle 21 all'Auditorium Concordia con ingresso libero. È disponibile online a partire da oggi con una nuova veste grafica il portale del sistema delle mediateche del Friuli Venezia Giulia www.mediatechefvg.it. Nel catalogo 43.000 titoli in DVD, Blu-ray e VHS disponibili per il prestito gratuito e la consultazione. Approfondimenti tematici, notizie e contenuti relativi ai progetti che le 4 mediateche regionali sviluppano in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio. Tra le informazioni c'è anche la programmazione di cinema collegati alle mediateche, l'Ariston di Trieste, Cinema Zero di Pordenone, il Visionario di Udine e Kinemax di Gorizia. E alle 7.49 arriviamo allo sport, ciclismo su pista. Medaglia d'argento per l'Italia dietro la Gran Bretagna nell'inseguimento a squadra ai mondiali di San Quentin in Francia. Del quartetto azzurro facevano parte 2 regionali, il bugliese Jonathan Milan e l'azzanese Manlio Moro. E poi c'erano il punto di forza, il pluricampione mondiale olimpico Filippo Ganna, che sabato ha pure battuto il record dell'ora, e Simone Consonni. Milan era incaricato di dare il massimo sforzo nella prima parte di gara, cambiando posizione rispetto al consueto assetto di squadra. La Gran Bretagna ha conquistato 4 decimi di vantaggio dopo 1 chilometro e ha resistito al ritorno degli azzurri, nonostante i britannici fossero rimasti in 3. L'Italia si è avvicinata nell'ultimo giro, chiudendo a soli 2 decimi dall'oro. Tempo finale per gli azzurri 3 minuti 46 secondi e 33 centesimi. A fine gara Milan ha dichiarato: sono arrivato alla seconda tirata con ancora qualche forza, forse un mio errore, avrei potuto dare di più. Calcio, la Triestina riparte da Massimo Pavanelli, il tecnico è stato chiamato a sostituire l'esonerato Bonatti, è la terza volta che Pavanelli allena la Triestina, lo fece per una stagione nel 2011 e per altre 2 stagioni dal 2018 al 2020. Con gli Alabardati sfiorò la promozione in Serie B perdendo lo spareggio contro il Pisa. Pallanuoto, esordio positivo per Trieste nella Eurocup. A Barcellona la squadra di Bettini ha superato i catalani del Mediterraneo per 9-6. Gli Alabardati hanno piazzato il break decisivo nel terzo tempo, mantenendo poi il vantaggio nel parziale conclusivo. Tra i marcatori spiccano le 3 reti di Mezzarobba. Secondo incontro questa sera, sempre a Barcellona, contro la temibile Stella Rossa Belgrado. Inizio alle 19.10. Al via la Coppa Italia della Serie 1 di pallanuoto femminile che si svolgerà a Firenze fino a domenica. Trieste, impegnata nel girone A, scenderà in vasca questa sera alle 20.45 per affrontare la Rarinantes Florenze. Sabato le orchette giocheranno alle 10 contro il Como, alle 17 con la Briz Nuoto. Domenica alle 16 ultima gara con la SIS Roma, detentrice del trofeo. Le prime 3 squadre classificate accederanno alle Final Six in programma a marzo 2023. La rassegna stampa, il titolo principale di prima pagina del Piccolo di Trieste riguarda il disegno di legge sullo sconto carburanti, il Piccolo ricorda il ribasso extra per le città di confine, tra i richiami della parte alta della pagina l'invito del Presidente della Regione Fedriga alla Presidente dell'Europarlamento Metsola per Gorizia 2025. Poi c'è l'apertura del Consolato di Svezia a Trieste, la scomparsa di Rita Moretti, neurologa e docente, capocronaca di Trieste sull'avvio dei lavori per il Museo del Mare in Porto Vecchio, un intervento da 33 milioni, il cantiere sarà operativo dal 27 ottobre. Il Messaggero Veneto di Udine apre sul caro energia, aziende e bollette, le richieste d'aiuto ai commercialisti, calcoli complicati per ottenere il bonus nazionale, oltre 4.500 domande per i fondi regionali. In prima pagina ci sono poi Rai 2 Fotonotizie, una dedicata all'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, l'altra sui funerali delle vittime dell'incidente sulla A4. In basso richiamo alla notizia di ciclismo, svanisce il sogno dell'oro mondiale per Milan e Moro. Le pagine di Cronaca Cittadina si aprono con una notizia che riguarda l'università. Ateneo contro gli sprechi, studenti e professori insieme nella stessa auto. Da lunedì operativa un'app con cui prenotare gli spostamenti casa università. Tra gli obiettivi riduzione di traffico e inquinamento incentivando le relazioni. Anche il dorso di Udine del Gazzettino titola sul caro energia. Bollette, casa di riposo in rosso. Dal 2021 al 2022 costi cresciuti dell'85%. A centropagina una fotonotizia racconta del video documentario sull'ex stabilimento Safau. Un mondo in cui lavorare per un'azienda dava anche un senso di appartenenza. Prima pagina del Piccolo di Gorizia, simile a quella dell'edizione di Trieste, cambiano alcuni richiami sulla colonna di destra. I prossimi lavori dei giardini pubblici, nuove tariffe per l'ormeggio a grado. La lettera dell'imprenditore Vescovini, secondo il quale la SBE è penalizzata da 30 anni. All'interno una pagina sulla Fondazione Brovedani, che a causa del caro bollette è costretta a chiedere una retta agli ospiti della casa albergo di Gorizia. Capocronaca di Gorizia sui lavori di riqualificazione dei giardini pubblici. Primo lotto di lavori al via dopo la fiera. Il titolo della prima pagina di Monfalcone recita: la scuola dell'infanzia sarà potenziata con l'apertura della sezione primavera. Bar e ristoranti a rischio chiusura per il caro bollette è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Pordenone. Senza aiuti governativi abbasseremo le serrande, dicono gli esercenti. Aperture limitate nei fine settimana e a Natale. Sempre in prima le due fotonotizie sul nuovo presidente del Senato e sui funerali delle vittime dell'incidente sulla A4, mentre in alto c'è un richiamo alla notizia dell'incontro a Bruxelles tra Fedriga e il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Il caro bollette e le preoccupazioni degli esercenti aprono anche la sezione della cronaca locale, che poi dedica un lungo articolo alla nuova sede dei Vigili del Fuoco di Pordenone, i cui lavori inizieranno a gennaio. Anche le pagine pordenonesi del Gazzettino, dopo il titolo sul caro bollette per le case di riposo, titolano sulla nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Trasferimento all'ex Monti nel 2024, più spazi e un complesso ipermoderno. Al centro una fotonotizia su Pordenone Legge, che ha conquistato anche il web con 1 milione di visualizzazioni. Altri appuntamenti della giornata. L'Associazione La Luna e Oltre la Luna, ODV, organizzano per oggi e domani una 2 giorni di studio e incontro sui temi di cittadinanza attiva, disabilità, in una società in trasformazione. Il convegno inizia alle 9 a San Giovanni di Casarsa, nella sede dell'Associazione San Giovannese. Alle 16.30 al centro conferenze dell'Università di Trieste in via Alviano 18 a Gorizia si terrà l'inaugurazione di Retinkable, festival transfrontaliero delle economie trasformative e delle comunità territoriali. Dalle 17 nell'aula magna dell'educandato Uccellis di Udine andrà in scena Quadri danzanti dedicati al Tiepolo su musiche di Vivaldi, uno spettacolo inedito prodotto dal liceo coreutico dell'educandato per Itinerarie. La Galleria Planetario di Trieste dedica la mostra Fuori Tempo all'artista Francesco Candeloro, che sarà presente all'inaugurazione di stasera alle 18 in via Filzi 4. Nell'ambito della rassegna I colloqui dell'Abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, presentazione del Non mancherò la strada di Luigi Innacci alle 18 all'Abbazia di Rosazzo. Sempre alle 18 al Teatro Miela di Trieste, appuntamento con il Festival di Musica e Cultura Contemporanee Teatri del Suono Soglie, che prevede concerti, performance, installazioni, proiezioni, talk. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda questa sera, andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali, le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 il consueto appuntamento con Veo Favelin D, che parlerà del commissario Mascherpa, che è il protagonista di una serie a fumetti pubblicata sulle pagine di Polizia Moderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato. Il nostro ospite è Tullia Galliussi, primo dirigente della Polizia di Stato. Alle 11.20 andrà in onda un tranquillo weekend da paura. Stefania e Marcella ci portano a Stregna per il Burgnac, la festa del castagne. Vanno poi a Gorizia per la terza edizione del Vis-à-vis Gorizia Dance Festival. E poi faranno un salto a Lignano, Sabbia d'Oro, per la mostra Migrart in Residence. Infine vanno in giro per la regione con le iniziative del FAI e a Valvasone per la tradizionale rassegna bandistica regionale. I programmi regionali torneranno alle 13.30. Termina così la prima edizione odierna del giornale radio regionale, edizione redatta da Daniele Lettige e Paolo Roncoletti. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, assistenza tecnica in regia di Walter Vidonis e Mauro Cumina. Appuntamento alle 11.05 per l'edizione flash, alle 12.30 per l'edizione meridiana. Grazie a voi per averci seguiti, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.